Yeah. Uh-huh. Féministe. Féministe, féministe, féministe, yeah. Féministe. Eccoci per Focus. Féministe, yeah. Féministe. Risposte femministe. Mais soyez réaliste, l'homme n'a pas droit à la parole, j'insiste. Ne m'écris que pendant que je rappe sur ma piste. C'est moi qui porte casse féminin, c'est toi qui porte string masculin. J'organise soirée, je sais pour les hommes soumis. T'as des mecs et des filles, moi je trie. Par le beauté, je suis déjà ébloui. Ton beauté, bien que tu le chambrasses, Mansa. Allora oggi con noi al telefono fra un po' parleremo con Charmaine Carole. Charmaine Carole è una fotografa attivista femminista dell'Africa del Sud. Fra un po' parlerò un po' del suo lavoro e poi la chiameremo e si fa un punto sulle uccisioni di lesbiche nell'Africa del Sud, una tematica che abbiamo seguito da quando Zanele Muoli, anche lei fotografa attivista, ne era venuta a parlare qui in studio. Vedremo anche con lei il suo lavoro, che è il suo lavoro di fotografa, e vediamo anche se c'ha qualcosa da dirci sull'attualità femminista e lesbica nell'Africa del Sud, Sudafrica. E poi dopo questo spazio dedicato alle lesbiche femministe dell'Africa del Sud andremo a leggere un testo. Vai. Ci siamo? Sì. La traduzione di un articolo di Herrera Gomez sull'amore romantico e di quanto sia nefasto e proprio parte integrante della nostra società patriarcale maschilista. Allora, il lavoro di Charmaine Carole è un lavoro un lavoro che va a lottare contro l'oppressione della fazzezza, della grassezza. E dunque, se andate sul suo blog, si vedono tutte queste foto di donne grasse a chi lei ha dato uno spazio grande, e si sono dunque chiamato questo percorso Shabby di Vogue Diva, e su questo suo blog ci sono tutte le testimonianze delle donne che hanno partecipato a questo progetto, sono 30, e se prendiamo questa, leggo alcune testimonianze perché sia hanno parlato del loro rapporto dell'oppressione subito da chi non c'ha la taglia 40 o 38 che la società vorrebbe imporre a tutti tutti e in particolare a tutte. Dunque, sia il disagio di questa oppressione o anche la brutalità dell'oppressione che subiscono, ma poi anche come recuperano la bellezza e la fiducia in se stessa, e come è stato importante di lavorare con Charmaine su questo progetto. Gloria Sambo, per esempio, dice: essere grassa non è brutto, non è una cosa brutta, è solo che devi veramente imparare a amarti te stessa e costruire una fiducia cioè molto forte. È una delle cose più difficili che una donna giovane ha da fare. O anche: io mi chiamo Nunfondo Lushaba e ho 23 anni e sono molto bella. Non tutte le persone grasse sono di salute, non sono di brutta salute, di cattiva salute, e nessuno può giudicare la salute di una persona solo alla sua apparenza. Si dice Kucha Voyo, che anche si chiama Mapuku. Quando sono andata a fare queste riprese fotografiche mi sono veramente sentita bene. Questo ha fatto che mi sono apprezzato io stesso, anche se posso dire che con fierezza che sono fiera, che questo amore per me stessa ce l'ho, e questa cosa fa che nessuno può tirarla fuori di me e dentro di me. O anche: quando ero alla scuola elementare era molto diverso, sono state sempre confrontato agli altri studenti, e talvolta mi sentivo anche molto dispiaciuta da me stessa, e talvolta anche non volevo più andare a scuola. Ma poi, dopo, con gli anni mi sono fregata di questa cosa e non ho più fatto attenzione alle cose negative che mi andavano, e perché poi sono diventata orgogliosa di me e molto fiduciosa in me. Sono sempre sono stata sempre andata nella strada in cui sono adesso. Da piccola ero già grassa, e poi c'è stato un punto della mia vita in cui volevo essere magra, perché la società lo voleva, e non mi andava di accettare questa norma di peso. E poi alla fine ho lasciato perdere, perché in questa società essere magra significa essere bella, e questo non lo credo più. Nolanda Buttelizzi: ho lottato molto per arrivare da fronte alla camera, e sono diventata molto più cosciente di me stesso e meno timida. Dopo un paio di exchange di riprese, ho iniziato a rilassarmi, a essere contenta e a godere di me stessa. E ho veramente goduto questa esperienza. Le fotografie della Chubby Vox Diva è veramente qualcosa che ti fanno essere al tuo agio. Un'altra dice: è stata veramente per me un aiuto, ma anche sorprendente nella mia vita, e ho potuto Ah sì, perché io devo insegnare come insegnante agli altri di avere fiducia in sé, ma come fai a insegnare questa cosa se tu non ce l'hai dentro di te, se te stessa non c'hai fiducia in te? E queste riprese di foto sono state un'esperienza incredibile. Anche la mia sorella, alcune amiche sono venute. È stata proprio un'opportunità di abbracciare una bellezza collettiva. Un'altra dice: ho lavorato molto per essere come sono adesso. La fiducia che ho avuto, che ho adesso, veramente ho dovuto lavorare molto e molto duramente. Perché ho avuto spesso e sempre una piccola stima di me, e sono stata anche più di una volta aggredita a scuola il mio peso. E per concludere, prima di chiamare questa attivista fotografa, sì, sono d'accordo che fare delle foto e delle riprese con Charmaine Carroll ti porta a essere molto orgogliosa di te. E a me mi piace molto di incontrarla, perché ogni volta mi diceva e mi raccontava come io sono bella. Las obras de tus manos construyeron o destruyeron. Con palabras suaves me muevo, yo no me mareo. Y la tierra de los padres de Ayana y no te espero. Tanto trabajador de la iniquidad, gracias a la FBI, policía pa' controlar. Y el pobre no duerme de tanto desear. Lo que el rico cuida tanto que no encuentra la paz. Siente el sabor de la sinceridad, galán, no te detengas, galán, galán. Siente el sabor de la sinceridad. Palabras venenosas pueden hacerme mal. Plástico, ni estático, ni mediático. Cachetada pa' los zapáticos. Es mi trabajo práctico. No río, piloto automático. Se lo dejo a los escénicos. Canto de Rastafari, bailan hasta los escénicos. Galán, tanto trabajador de la iniquidad. Gracias al FBI, policía pa' controlar. Y el pobre no duerme de tanto desear. Lo que el chico cuida tanto que no encuentra la paz. Siente el sabor de la sinceridad. Galán, no te detengas, galán, galán. Siente el sabor de la sinceridad. Palabras venenosas pueden hacerme mal. Siente el sabor de la sinceridad. Palabras positivas pueden llegar a sanar. Y siente el sabor de la sinceridad. Galán, no te detengas, galán. Dividir y reinar. Get to you, get wise. Viejo truco de Babilonia que deje de funcionar. Dividir y reinar. Get to you, get wise. Viejo truco de Babilonia que deje de funcionar. Galán, tanto trabajador de la iniquidad. Gracias a la FBI, policía pa' controlar. Y el pobre no duerme de tanto desear. Lo que el rico cuida tanto que no encuentra la paz. Siente el sabor de la sinceridad, galán. No te detengas, galán, galán. Siente el sabor de la sinceridad. Palabras venenosas pueden hacerme mal. Siente el sabor de la sinceridad. Palabras positivas pueden llegar a sanar. Y siente el sabor de la sinceridad, galán. No te detengas, galán. So, are you hear me? Yes, I hear you. Yes, me not. Little bit. Okay. Hello, Charmaine. So I just describe your work now on the radio, and the third things I can ask you is, so it's a fight against fat oppression. Can I define your work like this? Yes, it is. And how it's come that you feel that it was so important to do? Well, for me, I thought that is something very important to do, because sometimes being sad doesn't mean that it doesn't mean that you know you're less beautiful than someone else, because the media tells us that for you to be beautiful, you gotta be size 2, a size 4, and a size 6. Then you are beautiful. But in our culture, we are born to be big. We are big women, you know? So, and then if you are big, sometimes you are ostracized now, because now you don't feel yourself, you know, the self-esteem. You don't feel that you are beautiful enough. You don't feel that you also have a self-esteem to say, yes, I'm here. I just translate. So, per me era importante di farlo perché, sai, in questa cultura, in questa società in cui è difficile di immaginarsi bella quando sei grassa. E anche se nella nostra società ci sono tante donne grasse, il fatto di non essere della taglia giusta fa che non ti senti molto bella. And you have done... Okay, I look all the photos, and there is something like 30 women who participate to the project, and they all say that it was really important for them. How do you communicate with them to go inside, because it's, I imagine, something with like a relationship between you and them. Definitely, you have to create a relationship between yourself and the people that you... Some people I meet in the shopping center, some people I meet on Facebook, and ask them if they would like to be part of my project, and tell them this is the project that I'm doing. And some are very excited to become part of the project, because no one has ever called them to say that, come and do a photo shoot with us. Yes, wait. So sometimes some of them, it's for the very first time that they are doing a professional photo shoot. Allora, sì, dunque gli ho chiesto se era difficile di avere un rapporto con le donne, se è stato un lavoro di relazione anche. Dice no, non è stato così. Ho incontrato tante donne talvolta così, o su Facebook, e per loro era la maggior parte era molto eccitante di partecipare a questo progetto, perché non c'è mai la possibilità per loro di fare vedere come sono belle. And the thing that go out of the thing that they say it's they also to participate to the project is also to give them more self-esteem. This is nice, no? Yes, definitely. It's also to build. You know, in South Africa, we are crushed with many things. There's a lot of things that are happening within our own country, within our own families, and with that you gotta be have a low self-esteem about yourself, which is even harder. You know, we are facing a whole lot of things, like, for instance, because I deal with women, so the women that are photographed, they are mothers, they are sisters, you know, they are, some of them are friends of the lesbians that I meet, and some of them are the lesbians that are photographed. Some of them or family members of some of the people that have died through with the homophobic attack. I'm not able to translate, I think. La cosa che hai detto, mi sono perso. Let's continue. Le persone che ci ha fotografato sono molte persone che sono nelle township, e che sono anche persone che su questa cosa della stima di sé, mi sa, hanno anche lavorato, e per lei sono anche delle sorelle, delle persone vicine, e anche che è molto importante, perché ci sono delle attacchi diverse. I'm not sure that I translate you better, but I will do it for the blog. And do you want to add something more about your work, or can I go to ask you something about the situation of the lesbian and the murder? No. That, yes? Definitely. You can ask any questions or you can go on to the next question. But just that, you know, the work that I do is not... the project that I've done, which is the Chubby Vote Givers, is on big women. So I work with women issues. I work with self-esteem issues. I work with young girls, you know? Yeah. Because, I mean, we're a nation of women and young women that are growing up. And we want women to love themselves. To say it again, the hand? They must love themselves. Love themselves, yes. Yeah. Sì, dice che comunque le donne con chi ha lavorato sono da tante aree diverse, ma la cosa importante è di imparare a amarsi se stessa. And so I read in the newspaper what I thought that last month, also 3 weeks ago, there was a young woman who was killed, and also in September, and also in August, and also in June and July. So there's this murders, the lesbian continue to be killed. No, definitely. It's something that I don't know what to say, that it has become what, you know, it's like a fashion now for lesbians to be killed. It's like we're not in 2016 yet, where people should understand that LGBTI community is here and it's alive and it's here to stay, and we are human beings, and people still continue to do the senseless killings. Yes, there was another killing last month, and you know, it's so sad. I feel very sad because I'm a mother myself. Mm-hmm. But I feel very sad when these things happen, because when you're killing someone else's child, what are you saying? Mm-hmm. You know, what are you saying? I wish people could speak instead of killing. If they could speak and say what it is that they want, or what it is that they don't understand, so that one can make them understand. Mm-hmm. So la cosa, c'ho un po' di difficoltà da tradurre, come si sa, e la cosa che dice è che comunque queste cose continuano, che non c'è, cioè la cosa che gli viene da dire è semplicemente che è molto triste, che anche lei è una madre, e che il fatto di vivere con questa cosa è una cosa che, cioè, che si continua, che non si sa neanche come fare, ma che continua. So, is there also other things that, is there some protest against this, or is there some feminist activities or news that you want to share with us? Well, there was a march or women right now are sort of gathering themselves, because we are saying, it's, you know, it's black people killing other black people. Especially with the LGBTIs. So it's not somebody coming from somewhere and killing people, you know? Mm-hmm. So last month, was it last week, there was a black woman only, you know? So it was black girls gathering that we had at Constitutional Hill, which, you know, everyone who was there, it was to speak on our blackness. You know, we are black, but we are killing each other. We are black, but we don't want to motivate each other. We are black, but we do not want to come together, you know? Yeah. Allora sì, le donne hanno fatto una demo anche ultimamente, perché comunque la storia è che non è che c'è qualcuna di fuori che viene a ucciderli, no, sono persone nere che si uccidono tra loro, e questo è una cosa che vogliamo dire: siamo neri e non è possibile che ci uccidiamo tra noi. Nella Costituzione che è stata fatta, è una Costituzione in cui comunque abbiamo tutti gli stessi diritti, e in questo caso sì, il fatto che sono i neri che si uccidono tra di loro, e noi volevamo dirlo ai maschi che uccidono che questa cosa non è possibile. Mm-hmm. And is there some respond? Do you think that something move in the black community, in the black society, in around this? No, definitely something needs to happen, or something conscientizing. You know, as black people is a very good thing, because right now also within the country in South Africa, we know that we are going through a whole lot of things, as in politically, our country is going through a whole lot of things, and also with the fact that you know, it's time we stand together. You know, as black people, we stand together. Whether it's heterosexual women, whether it's lesbian women, we just need to stand together. Mm-hmm. Sì, in questo momento a livello politico comunque dobbiamo capirci tutti insieme, come donne etero, come donne lesbiche, ma anche con tutti dobbiamo capirci, dobbiamo sentirci. Well, Charmaine, I will thank you. If you want to add something, you can also, if you want, say hello to all the Italian friend and feminists you know here in Italy. They are listening to you. Thank you so much. I just want to say thank you so much, Sophie, for having me on your show. And yes, definitely I'd like to say hello to everybody who's, you know, Viviana, people that I know in Italy, and Fabiana. You know, thank you so much, guys, for all the support. And yes, we will continue to get in contact. Okay, thank you so much. Thank you. Hear you soon, and have a good evening. Bye bye. Allora, come l'avete sentito, no, la traduzione che infatti faccia a faccia, ma anche al telefono senza il mixer, si capivamo molto bene, e dunque questa volta, cioè non lo so, cioè non allora comunque riprenderemo questa traduzione sul blog, in modo di mettere molto in valore il lavoro e l'attivismo di Charmaine, che accompagna di lotta in Africa del Sud.